qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Sei solo chiacchiere distintivo, chiacchiere distintivo. Allora, 22:54 minuti primi sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Rimettiamo un po' le cose in ordine per come stavano. Tutto rallentato e vabbè, insomma, dai, iniziamo con l'avete sentito prima, con i problemi tecnici. D'altronde la trasmissione che ci precede si chiama Prove Tecniche di Trasmissione. C'è un cavetto, credo, che abbiamo scoperto, che va su un canale solo, quindi la sigla su un canale solo, gli altri CD poi andranno bene. Noi siamo trasparenti e diciamo tutto. Oggi che è 5 di aprile, mi pare, 5 di aprile del 2023, ci siamo ancora e siamo riusciti, cioè non tanto siamo riusciti, alla fine, anzi, è stata quasi naturale, indipendente dalle nostre volontà, siamo riusciti a portare un paio di vecchie presenze qua negli studi della radio. Di dargli la parola, perché poi in realtà hanno preparato tutto loro una scaletta ricca che ci porterà ad evocare chissà cosa. Prima di dare non arriva un canale, non arriva niente, troppo piano, arrivo solo io. Vabbè, dai, adesso me la do la parola. A parte che c'hai dei microfoni, potete pure parlare. No, però, anzi, però sono passati. No, ipotizzavo che forse il giovane speaker che ci precedeva forse ha ragione a dire che le vetture non funzionano così. Il ragazzo che trasmetteva prima, sì. Giovanotto. Canale solo, c'è anche cavetto sfonnato, ma, vabbè, insomma, ma è abbastanza tanto la radio va in mono, no? È abbastanza normale, sì, ma adesso è partito pure quell'altro, credo. No, è successo qualcosa? E adesso la lasciamo così. Ma c'è un motivo per cui sta andando tutta questa roba così e la tecnologia si ribella, perché noi appunto stiamo evocando qualcosa di... aspetta. No, e mo ci riproviamo, dai. Vabbè. Diciamo le cose importanti, poi tutto quello che resta, che rimane dopo, diciamo, sono facezie di minor valore dal momento che le facciamo noi. No, la radio ha iniziato il radioabbonamento, questo lo vogliamo dire, quindi andate sul sito www.ondarossa.info e troverete un banner bello, come sempre accade. un po' criptico, un po' come si dice, un po' buio, nel senso che sa molto. Ci piace. Sì, sì, ci piace. Esoterico. No, sa molto proprio di resistenza dentro, capito, dentro con le persone, con dei ragazzi, delle persone che ascoltano la radio intorno a un tavolino, capito? Però la radio al buio è sette operai. Esatto, vedi, ecco la citazione, bravissimo. E quindi ci piace ancora di più per questo. Andate lì, ci cliccate dentro, vi si apre il banner. Poi produzioni al basso, insomma, e lì si seguono le istruzioni. Vi chiediamo 40.000 euro quest'anno, perché la vita è aumentata per tutti, quindi con i 30.000 euro dell'altro anno purtroppo dobbiamo prendere atto che non gli se la fa, dopodiché capiamo pure che anche voi non gliela fate, quindi insomma inventiamoci qualcosa, cerchiamo di riuscire a raggiungere comunque la cifra. Per fare in maniera tale che al di là di noi, di quello che possiamo dire noi e di come possiamo il mercoledì sera distruggere la radio, al di là di questo, insomma, facciamo in maniera tale che la radio continui a parlare, continui a essere così un luogo di dibattito, di stimolo e di rilancio delle lotte, che è quello che la radio fa da 40 anni grazie al vostro contributo, senza mai prendere un soldo, una lira, un euro, sono passati anche le monete. E quindi rinnoviamo appunto l'invito a contribuire alla Tenda Rossa e farlo con radio abbonamento, quindi 40.000 euro, facciamo uno sforzo tutti insieme e tutte insieme. Vi ricordiamo poi i numeri importanti della radio, www.interesso.info, il sito ve l'abbiamo detto, podcast, trasmissioni, registrazioni, informazioni, insomma trovate tutto lì, nonché appunto la sottoscrizione e l'ascolto in streaming, ondarossa@ondarossa.info, la mail della radio per le vostre comunicazioni insieme ai social della radio. 25 o'clock @ondarossa.info, oppure per disturbare noi altri, e infine 06491750, che squilla qua davanti a noi senza accendere più la luce rossa, e questa sarà una cosa che un giorno verrò con pinze, cacciavieti, non va bene. Bene, si deve accendere la luce rossa. Allora, ci siamo, avevamo alzato veramente a palla tutti i volumi perché non rientrava. Si chiamava, vedremo adesso come riuscire a risolvere. Dicevamo, perché non funziona nulla questa sera? Allora, abbiamo Fantasma da una parte, Marco de, a sto punto non so che dire, P38 Punk è la maniera più facile per riconoscerlo, però in una versione oggi a metà fra musica e cinema. Sì, rientro, vai. Incredibile. Sì, vengo a fare sfoggio della mia sovravvalutata istruzione. Quei soldi che ci ho speso in qualche modo. Bisogna, vabbè, viene alla radio. Insomma. Vengo alla radio. E santifichiamo la settimana santa con un bel Ludus de Antichristi, che erano le rappresentazioni blasfeme che si facevano a teatro durante la settimana santa. Benissimo. Allora, nel frattempo noi partiamo. Adesso non mi sento più il ritorno, io sì, si sente il ritorno. E allora, allora come partiamo? Perché l'idea, io almeno la cartella qui l'ho chiamata Horror Splatter qualche cosa. Com'era il nome della cartella che avevo dato al... Non ce lo ricordiamo, va bene. No, dimmi, cioè magari... Ah, no, vabbè. Come io l'ho chiamata cartella. Cartella. Invece io l'ho chiamata Horror Splatter Soundtrack. Horror Splatter Soundtrack. Vabbè, Pasqua, morte, resurrezione, quindi... Esatto, è comunque una tematica splatter. Beh, insomma... Un'immonda resurrezione. Assolutamente, poi c'è sta tutta la faccenda poi del... Come si chiamano? Delle reliquie, no? Delle reliquie dei santi e ah sì, che il sono assolutamente è una cosa che Romero è sì, dilettante. Quindi non penso nemmeno che in realtà siamo così blasfemi perché sì, no, siamo gente arrostita, occhi cavati, sbranati. Ma poi la durazione del dito, capito? Ah, sì, sì. Anche la necrofagia, La necrofagia, insomma, c'è un po' di tutto. Vabbè, l'ostia stessa, insomma, è mangiare. Insomma, abbiamo dette tutte. Quindi adesso se non funziona qualcosa, sapete, è colpa di Dio. È colpa di Dio. Cioè, non... tutto quello che abbiamo creduto fino ad oggi, cioè che in realtà proprio non c'è proprio nessuno, e soprattutto non c'è nessuno della fattezza di come ce l'hanno insegnato a noi al catechismo, per chi ha avuto la sfortuna. Ma nell'altra fattezza, Vediamo un po' la fattezza di Dio. Ora basta parlare degli amici immaginari. Allora, no, come siamo partiti? Qual è il motivo, a parte appunto il celebrare la Santa Pasqua, qual è la sequenza logica che abbiamo seguito per... Ma un rapporto tra musica e cinema di genere. In realtà siamo partiti con l'idea del rock, ma... Nel cinema di genere horror ci sono anche sorprese che che spaziano, perché poi è un contenitore infinito, e quindi ci siamo scatenati, abbiamo tirato fuori delle cose anche abbastanza strane, una in particolare inaspettate. Ma riguardo... si potrebbe anche fare una sfida, chi indovina quello l'autrice. Senz'altro. Quando ci arriviamo penso che lanceremo proprio il concorsino, poi vediamo, insomma. Bisogna che si vince. Intanto diciamo il numero di telefono, 06491750, l'abbiamo detto prima, cercate di indovinare anche se non abbiamo ancora fatto la domanda. Questo è difficile a fare. Questo. Chi indovina ora, vittoria totale. Ha tutto, gli do le chiavi della macchina. Allora, partiamo subito con la prima traccia. Vai. E così capiamo di cosa stiamo parlando. Allora, innanzitutto vi siete mai domandati, o se c'è una risposta vostra già pronta, al fatto per cui la cinematografia di genere, ovvero tutti i sottogeneri della cinematografia, sono nati più o meno a cavallo fra gli anni 70-80, qualche volta qualche intuizione particolare alla fine degli anni 60, però... Ma in realtà... No. In realtà no, nel senso forse i primi film erano già di genere. Se pensi al Viaggio sulla Luna di Méliès, certo, già un film di fantascienza. O i film sui vampiri, per dire. Ma in realtà anche andando negli anni 50 con lo stesso Ed Wood è cinema di genere. Certo. Planet from Outer Space, così, ma possiamo dare una stretta definizione anche, secondo me, uno spartiacque, il famoso Bloodfest di Lewis, che è il primo splatter hardcore della storia, che credo sia o di fine anni 50 o primissimi anni, se non ricordo se è 59 o 61 l'anno esatto. Tutta la lezione di Hitchcock, insomma, è del thriller, che comunque molte volte poi, benché sia molto psicologico, alle volte sfocia anche nel sì, anche se Hitchcock è già una produzione forte, più alta. Certo. Hitchcock non è un autoprodotto. No, ecco. No, assolutamente. Non è un autoprodotto, però su Hitchcock, per rientrare insomma nel tema di questa puntata, c'è il connubio fantastico di musica e immagini. Cioè, togliere da un film, ad esempio, come Psycho, la colonna sonora. Sì, gli archi nella scena della doccia, le lancinate di violino, quella è un'intuizione geniale, quasi quanto il sangue che gira nello sgorgo della doccia. Tutto si sposa perfettamente, lì comincia a vedersi, se non il matrimonio, il fidanzamento che c'è tra la musica e un certo immagini. Tipo di cinema, un certo tipo di immagini. Non so adesso, vogliamo andare avanti con due parole sulla traccia che abbiamo appena sentito, perché le merita, penso che lo sentiremo ancora. Questo è proprio il perfetto esempio di matrimonio tra cinema e musica, perché è Escape from New York, il tema dal film Escape from New York di John Carpenter, che musiche. È musica e regia, e tra l'altro Carpenter cura sempre la musica nei suoi film, è sempre il compositore, tranne in un solo caso, vogliamo dire, dillo te qual è. Oddio, perché era un mostro sacro al quale Carpenter aveva paura di avvicinarsi, quindi decise di concentrarsi solo sulla regia e affidare la musica ad un altro mostro sacro. Dimmelo un po', perché lo so, ma in questo momento non... Il remake della Cosa di un altro mondo, che è l'unico film dove lui Ennio non Morricone. Fa... Ennio Morricone fa le musiche ed è l'unico film di Carpenter dove Carpenter non fa la musica. Allora, un altro aspetto, sempre rimanendo su Carpenter, prima abbiamo citato Hitchcock, quindi la scena dell'omicidio di Psycho, con gli archi che sono perfettamente fusi nelle immagini, appunto, dell'omicidio. Musica che abbiamo citato, importante per tutta una serie di film che è venuta dopo. Grandi produzioni, come detto prima, e non a caso avevano scelto, come Hitchcock aveva scelto Bernard Herrmann, che era uno dei più grandi compositori di colonne sonore di quegli anni lì. Invece Carpenter, la scelta di comporre le musiche per i propri film viene proprio da esigenze opposte. Non diciamo, lui si approccia alle colonne sonore perché non c'aveva i soldi, cioè non le sue produzioni erano, diciamo, low budget, quindi per risparmiare aveva cominciato a comporre le proprie colonne sonore. Ma c'aveva anche una passione, che poi diventa predominante. Adesso Carpenter è soprattutto musicista, oggi, cioè nei film di Carpenter sono tre i punti fermi sempre sono la dilatazione del tempo. Carpenter gioca con il tempo nel Signore del Male, i titoli di testa penetrano per un quarto d'ora all'inizio del film. In 1997, Fuga da New York, Una notte eterna, i tre minuti finali, quelli dove c'è la rissa, il combattimento, il duello tra il Duca e Snake Yanaplinsky, dovrebbero essere tre minuti, ma in realtà sono quasi dieci. E questo è il secondo punto. E il terzo punto è una cortesia che lui fa a due grandi amici suoi che ricambiano. Nei film di Carpenter, quasi sempre, almeno fino al Seme della Follia, due personaggi comprimari del film si chiamano Cronenberg e Romero. Nel 1997 Cronenberg è l'assistente di Lee Van Cleef, mentre Romero è il punk amante del Duca di New York. Se non andate via entro 20 secondi, lui muore. Esatto, lui ha doppiato perfettamente. Sono tutte puttanate. Ma forse è lui il doppiatore, poi non lo sappiamo, ma era lui. Chissà. Quindi di Carpenter abbiamo detto poco, ma quello che dovevamo dire adesso l'abbiamo detto. Ok, io allora passerei invece a una delle proposte del fantasma. Allora ce l'ho sempre per rimanere, siccome siamo abbastanza affezionati con Carpenter, e ho portato in scaletta un pezzo dei Tangerine Dream, dalla colonna sonora del film Il salario che uccide, film del 75, e lo ascoltiamo e capirete che parte delle ispirazioni di Carpenter si rifanno un pochino a queste sonorità. We'll be right back. Radio Onda Rossa 87.9 della mutazione di frequenza con Fantasma e Marco De Pietrantotto. E cosa stiamo ascoltando sotto invece? In sottofondo questo è Trioxin Team, dal film, grande film di Brian Yuzna, Il ritorno dei morti viventi, che è forse credo il primo film dopo la trasformazione dello zombie che opera Romero. Questo credo sia uno dei primissimi film, perché non è che gli zombie non esistessero. Il primo film di zombie è Attacco alla Terra, che è un film di fantascienza, che è degli anni 50, film bello maccartista, appunto questi zombie che rappresentano il comunismo, tutti uguali, senza... cosa che poi paradossalmente è un parametro, un addendo che Romero rovescia completamente, perché gli zombie diventano i proletari, però divorati dal capitalismo, dal consumismo, e quindi divorano tutto, no? Il capitalismo che ti porta a divorare ogni cosa. Allora ripreciso meglio la domanda di prima: che segno prende proprio negli anni 70 e 80 il cinema di genere horror splatter, che è un po', diciamo, quello che stavi perché a prevalenza comunista di sinistra? Cioè Romero era un socialista dichiarato, Carpenter era anarchico. Cronenberg pure bazzicava ambienti di estrema sinistra, Fulci è stato arrestato per sospetta connivenza sovversiva con le Brigate Rosse, si fece una notte al gabbio, queste sono le leggende che girano, in realtà cose vere perché poi raccontava pure lui. Anche perché poi anni era anche abbastanza facile passare la notte al fresco. Poi appunto in un periodo particolare bastava veramente conoscere qualcuno, stare nel numero di telefono nell'agentina di qualcuno e diventavi subito un fiancheggiatore, insomma. Sì, poi Fulci in realtà poi per motivi politici si beccò l'ostracismo da tutte le divisioni di Stato per un altro film che invece non era horror, che Non si sevizia un paperino, che è il primo film che parla di pedofilia all'interno della Chiesa Cattolica del 69. Ebbe la pessima idea di farlo uscire in Italia e praticamente lui il successo lo ebbe all'estero. I Cahiers du Cinéma, notoriamente avidi di complimenti verso gli italiani, fecero l'Exceptio Natantum per Fulci e per lui in occasione dell'uscita del film, bruttissimo titolo in italiano, Paura nella città dei morti viventi, in realtà il titolo originale era La paura, coniarono per lui l'epiteto del poeta del macabro. Quando morì a Tokyo gli dedicarono due sale, a Londra il Wentworth Circuit fece per una settimana a rotazione tutti i suoi film, in Italia purtroppo tranne Ghezzi, e ahimè lo devo dire, cioè, mi dispiace dirlo però è vero, bisogna Emilio Fede, nessuno ne parlò, proprio perché lui ancora godeva tra virgolette di questa dannazio memoria che veniva da quel film. E perché secondo voi, sempre se c'è un perché magari invece si sceglie proprio il cinema di genere in un momento in cui invece il cinema d'autore poi era abbastanza impegnato, non è che altri autori, comunque a partire da Sergio Leone per dirti, arrivare a perché esteticamente insomma e perché si sceglie perché esteticamente rivoluzionario, nel senso che non si curava della bellezza secondo i criteri estetici, estetica con la E maiuscola, no? Quella della filosofia del linguaggio, il filtro interpretativo del reale, non si curava di quei criteri estetici del ceto egemone. Comunque Antonioni lo vedevano anche quelli della medio alta borghesia, perché rispondeva a quei canoni estetici. Fulci era popolare anche nelle produzioni non horror, da Franco e Ciccio a Totò al western. Fulci era estremamente popolare, così come quasi tutti gli autori, tutti anzi tranne Sergio Leone, che appartiene al cinema di genere come filone, però raggiunge delle vette produttive altissime che fanno pensare tutto meno che il cinema, ma quello in realtà era il talento di Sergio Leone, che era che non a caso poi Sergio Leone in alcuni suoi grandi successi chiama come sceneggiatore un altro grande figlio del cinema di genere, che è Dario Argento. C'era una volta il West, le sceneggiature sono di Dario Argento. Bene, bene. E come procediamo? Qui abbiamo... Beh, abbiamo parlato di Fulci. Oppure vogliamo dare una botta con... Fortified Grave possiamo mandarlo? Sì, visto che stiamo sempre su Ritorno ai Morti Viventi, che tra l'altro come film di zombie ha una particolarità. In questo film gli zombie sono intelligenti. E poi andiamo a vedere... Uno dei pochi, forse uno degli unici, Yuzna è credo l'unico che ci fa vedere degli zombie che ragionano. Parte silenzioso, chissà se parte. E qui entriamo in un altro argomento importante e interessante, cioè quel matrimonio, chiamiamolo così con questo termine istituzionale, fra il metal e l'horror, dove viene questa? È naturale proprio, penso sia, no? Ma allora, sì, dunque, la tematica horror gotica nel genere metal, cioè dai primordi. Basti pensare a uno dei primi dischi riconosciuti come capisaldi del genere metal, Black Sabbath. The Black Sabbath inizia con le campane a morte. E quindi il primo disco dei Black Sabbath, che è riconosciuto appunto come uno degli album di riferimento per il genere heavy metal, è horror, inizia horror. Quindi è un processo naturale, era un matrimonio, diciamo, sì, che era impossibile non fare. Musica, suoni, immagini e tematiche anche cantate dalla musica si sposano completamente. Questo pezzo qui che abbiamo appena sentito, It's Party Time, Nella sequenza del film, ne parlavamo prima, è una sequenza che chiunque almeno una volta nella vita abbia sentito l'odore dei lacrimogeni lo trova come un orgasmo estetico, perché c'è la polizia schierata in assetto antisommossa che non sa che cosa sta succedendo, si prepara semplicemente a reprimere un assembramento sedizioso. Lanciano tutti i loro segnali, no? Con gli scudi, i lampeggianti, disperdetevi verso questa folla che è in ombra ancora, non si vede, no? Disperdetevi, useremo la forza. Poi a un certo punto la folla va in luce e sono questi zombie che assaltano la polizia, ci sono gli scontri tra la polizia e gli zombie e la polizia le scaglia di santa ragione, le busca. Poi tra diciamo tutte... Quindi tempo di festa. Beh, giustissimo. No, stavo pensando appunto tra le varie, come dire, i vari personaggi iconici del genere horror. Abbiamo il vampiro che rappresenta un po' questa figura, ma anche aristocratica, no? Abbiamo il lupo mannaro che invece è il maledetto. Comunque sempre personaggi iconici marginali. No, il vampiro no. Il vampiro è l'aristocrazia di sangue. Ma il vampiro in sé è comunque un essere molto pericoloso. Il lupo mannaro è un essere mostruoso. Lo zombie in sé da solo non è che è un grande problema, perché generalmente, a parte alcune interpretazioni che stravolgono un po' i centometristi, è carne da macello, però insomma la potenza dello zombie è nella massa critica, certo. Quindi appunto nell'invasione degli zombie, lo zombie di per sé è, appunto, dicevamo prima, lo zombie è stupido, no? Lo abbatti con un colpo in testa, non è in grado di combattere da solo, ma appunto ha questo numero enorme che è un po' e si moltiplica e si contamina l'un con l'altro, contamina l'altra popolazione, e quindi qui c'è la metafora, quella che citavi prima, appunto, dello zombie proletario. Insomma, c'è anche l'aspetto un po' da proletario. Ma non l'ho uscito io, lo dice proprio espressamente Romero, sì. Lo dice chiaramente lui, quindi non c'è bisogno di dire altro. Io passerei invece a Fantasma, che ha anche lui una lunga scaletta da proporre. Prossimo pezzo, vediamo. Ecco, ora ci sono. Oddio. Scusate, sono un po' arrugginito. Ecco, l'altro mouse, ecco. Allora, prima avevamo citato i Black Sabbath. I Black Sabbath erano un po' considerati satanisti, diabolici. Poi effettivamente non erano così addentro all'occulto. Si chiamano Black Sabbath dal film della Hammer con Boris Karloff, appunto Black Sabbath. E c'era un altro gruppo che usciva negli stessi anni dei Black Sabbath, si chiamano anche loro Black, ma Black Widow, e ce li ascoltiamo dall'album Sacrifice, e questo era loro Come to the Sabbath. my search for knowledge, I must learn the secret art. Who dares to help me raise the one whose very name soothes my heart? And fields and moonlit moors, your body soaked in secret oils, perfume herbs will heal your sores. Join me in my search for power, wives and husbands, bring your kin, we'll be as one within the hour. Let the Sabbath now begin. Come, come to the Sabbath, come to the Sabbath, Satan's there. Come, come, come to the Sabbath, come to the Sabbath, Satan's there. Come, come, come to the Sabbath, come to the Sabbath, Satan's there. Come, come, come to the Sabbath, come to the Sabbath, Satan's there. Come, come, come to the Sabbath, come to the Sabbath, Satan's there. Come, come, come to the Sabbath, come to the Sabbath, Satan's there. Come, come, come to the Sabbath, come to the Sabbath, Satan's there. Search for power, wives and husbands, bring your kin. We'll be as one within the hour. Let the Sabbath now begin. Come, come, come to the Sabbath, come to the Sabbath, Satan's there. Come, come, come to the Sabbath, come to the Sabbath, Satan's there. Come, come, come to the Sabbath, come to the Sabbath, Satan's there. Come, come, come to the Sabbath, come to the Sabbath, Satan's there. Come, come, come to the Sabbath, come to the Sabbath, Satan's there. Come, come, come to the Sabbath, come to the Sabbath, Satan's there. Come, come, come to the Sabbath, come to the Sabbath, Satan's there. Come, come, come to the Sabbath, come to the Sabbath, Satan's there. Come, come, come to the Sabbath, come to the Sabbath, Satan's there. Minuti primi, torniamo in onda a Radio Onda Rossa 25 o'clock, questa sera dedicata al cinema di genere. E venendo e vedendo pure com'è la scaletta fatta e quello che andrà dopo, abbiamo parlato di generi di elezione, in cui il metal o un certo tipo di psichedelia, no, è assolutamente sintonizzata con quella che sono immagini già in partenza. Però il cinema di genere è fatto proprio di alti e bassi, cioè ha necessità, il maestro Hitchcock prima lo citavamo, ha necessità proprio di momenti di distensione e poi invece di momenti di forte tensione che si alternano l'un con l'altro e che fanno rimanere, cioè il segreto è quello. Te non è che ti sto proponendo appunto un cinema tutto sommato intellettuale, ma ti sto proponendo un cinema di emozione, un cinema forte. Anche se poi becchi una bel Ferrara con The Addiction e devi avere una laurea in filosofia del linguaggio per capirlo, eh? Certo, certo, ci sta. Non che questo qui sminuisca, ma è proprio la necessità di cui parlavamo prima, di poter dire cose importanti, però con un linguaggio estremamente popolare. Come, cultural popolare, come diceva Fulci. Come diceva Fulci. E quindi alle volte anche la musica segue questa, tendenza non lineare del grafico delle emozioni mentre si osserva. O addirittura va a contrasti. Cioè, nel senso che te hai una scena estremamente violenta, forte, e sotto invece c'hai qualcos'altro, una ballata o qualche altra cosa. Io qui ho pronto Julian Cope, che tra l'altro da queste parti, cioè, per noi è stata proprio una... non sapevo avesse partecipato al il ritorno dei morti viventi, Julian Cope, però nella sua seconda versione, no? Nel secondo capitolo. Sono arrivati a 5. Benissimo. E cosa possiamo dire di più del ritorno dei morti viventi 2 e dell'intervento del pagano celtico Julian Cope? Ma intanto direi che sentiamocelo. E poi ne parliamo. Bene. Quarantasette minuti primi, Radio Onda Rossa 25 o'clock, Sir Julian abbiamo ascoltato. E, quando ritornando a questo connubio fra musica e immagini, che sono assolutamente indispensabili proprio alla riuscita del, di effetto emotivo del film, quando è che compare questa Return on the Living, parte 2, come si chiama? Specchio? No, la traccia adesso non riusciamo a leggere come si intitola la traccia. Comunque, Ritorno ai Monti Viventi 2, Space Chopper. Space Chopper. Sì, questa è una fissa di Yuzna, cioè legata a una sequenza che in Yuzna si ripete in altre forme ma con lo stesso senso. Questo pezzo domina la sequenza in cui ci sono i militari. I militari per Yuzna sono sempre ineluttabilmente una banda di stronzi e sono il problema. Quindi aggiungiamo l'antimilitarismo a l'antimilitarismo, quanto sì. Cioè, mentre in Romero c'è anche una qualche forma di redenzione, in Dawn of the Dead c'è i due poliziotti, no, che proletari in divisa, che comunque hanno una sorta di redenzione. Stessa cosa in Survival of the Dead, dove questi militari poi alla fine vanno a prendono coscienza e vanno a proteggere i civili. In Yuzna no, in Yuzna l'uomo in divisa non si redime mai, l'uomo in divisa è il problema, cioè la trioxina, che è questo gas che fa resuscitare i morti, è, parafrasando Hillary Clinton riferita all'ISIS, è una loro arma che gli sfugge di mano. E in questa sequenza c'è l'origine del problema, cioè bidoni e bidoni stoccati di questo gas contagiosissimo, pericolosissimo, affidati a persone strafatte che si fanno le canne, militari strafatti, che li fanno cascare, si aprono e succede l'apocalisse. Certo, e poi devono rimediare nuclearizzando. L'idea è quella, poi alla fine la soluzione è quella di... È un po' come mandare le armi all'Ucraina per avere la pace. Esatto. Tante metafore che poi ci ritornano, ne parlavamo poi, vabbè, del fatto delle distopie e di come accennavi te all'inizio, insomma. Sì, Yuzna era un ottimista negli anni 80. E quindi vi invitiamo a guardare di più i film horror, soprattutto di quel periodo là. Come andiamo avanti, visto anche che il tempo... Con una proposta che... Certo, comune. Ah, la proposta comune. Certo, sì, che certo. Ci siamo trovati io e il fantasma uguali in scaletta. Allora, che questa sera... Non ho memorizzato bene la tua scaletta, Marco, ma immagino che i Goblin non li hai portati. Perché pensavo che li portavi te. Ce li siamo persi. No, ma non è un problema. Era troppo scontato passare i Goblin. E poi, no, se devo essere sincero, io non sono un fan di Dario Argento. Secondo me è un regista sopravvalutato. Scusate. Secondo me c'è stato un momento in cui è stato un grande. Sì, poi gli errori di Dario Argento sono stati tre: divorziare da Nicolodi, che gli correggeva le sceneggiature, cambiare il gruppo di lavoro, compresi i direttori della fotografia, e smettere con l'eroina. Quelli sono stati i tre grandi problemi di Dario Argento. Sì, sì, infatti c'è un calo. Ci metterei pure poi, fare il produttore. Sì, sì, ma ci stanno veramente dei film che nemmeno sarebbe da chiamare minori, o sono proprio da scartare, cioè delle cose che venivano messe in commercio semplicemente perché c'era l'emblema, la pecetta Dario Argento, per cui con quello già... Di quello ne parliamo dopo, perché ho scelto un film a parte, che è il primo film di Dario Argento come produttore, nella cui locandina il regista è praticamente quasi invisibile, eppure c'ha un cognome pesante, se non un nome, almeno un cognome molto pesante. Però in realtà nella locandina, infatti tutti pensano che sia un film di Dario Argento, Dario Argento lì è solo il produttore, ma non stiamo parlando di questo perché non è la proposta comune. Allora, la proposta del comune fantasma, non me la ricordo più, però. Qual era? Enfierno. Allora, uno dei tre film della trilogia più poetica di Dario Argento. Sì, sì. Ambiziosa. Ambiziosa, riuscita? Che si sputtana tutta sull'ultimo. Esatto, l'ultimo Guarda, io uscendo dalla sala dopo aver visto La terza madre, sono uscito con un'aria perplessa. Per fortuna non ho pagato il biglietto, perché ci sono andato come redattore di Taxi Drivers, quindi se no sarei stato pure incazzato. E quindi sono uscito semplicemente perplesso, pensando, vabbè, ma nella storia dell'arte tanti capolavori sono incompiuti. Che bisogno c'era di completare la trilogia con questo film? Vabbè. Peccato, perché i primi due sono due capolavori. Inferno è sicuramente il primo, il più bello, il più grande, il più potente, anche per l'apporto musicale. Apporto musicale che si discosta dalla tradizione. E il decoupage? Come? Il decoupage, quel decoupage art déco con dei colori. Si vedeva che abusava di sostanze, questi colori che sfondavano lo schermo, accompagnati dalla musica. Accompagnati da, sì, un, non mi ricordo neanche come si chiama questo musicante. Mark Tenebrarum. Sì, ma sì, no, un certo Kit Emerson, so forse. In latino, cantata in latino. Mark Tenebrarum, e la mandiamo. Mater. Mater Tenebrarum. Minuti primi, vediamo se riusciamo a sistemare bene i cursori. 23:57 minuti primi sulle frequenze di Radio Onda Rossa, e insomma siamo rimasti impietriti di fronte, sì, a tanta botta di adrenalina. Stavamo descrivendo anche la scena che andava a commentare questo pezzo, che è proprio una sorta di orgasmo nero del film, topos, no? della letteratura gotica. Cioè c'è questo protagonista, questo eroe proprio gotico, quasi da Edgar Allan Poe, no? Che si aggira per i sotterranei della casa di una delle tre madri, Mater Tenebrarum, che proprio richiama le atmosfere della caduta di casa Usher. Esatto, esatto. C'è da dire che Keith Emerson ci mette non più del 50%, diciamo. Sì, e poi c'è questa scelta coraggiosissima. Discutiamo sulla data, non ci ricordiamo 79, se è del 79 o dell'80, quindi davanti, diamo il beneficio del dubbio, quel film, però poi l'hanno fatto tutti, ma in un pezzo art progressive mettere il testo in latino all'epoca era quasi una follia. Certo, certo. Sì, andava diciamo, a sottolineare, ad aumentare le tinte blasfeme del concetto infernale, quel, il linguaggio latino per secoli lingua ufficiale ad appannaggio della Chiesa, in questa versione ritorna proprio come lingua infernale. Capito, ma se pensi che si usciva da un periodo in cui anche chi non cantava in inglese cantava in inglese, cioè c'erano gli italiani che facevano finta di cantare stasera mi butto, cantare in inglese, quindi questo anglismo fonetico forzato, tutti si sentivano Dan Peterson, invece uno che parla inglese decide di usare il latino. Sì, sì, sì. Spiazzante. E l'effetto, vai. No, vogliamo continuare con la scaletta? Ma certamente. Allora, ho portato un estratto da... allora, loro sono i Devil Doll, che lo troviamo non nella versione splatter, sopra... oddio. Ce lo siamo perso. Aspetta, aspetta, ci arriviamo. Forse... Allora, questo qui. Loro sono il Marocco. Allora, un gruppo, loro erano i Devil Doll, un gruppo attivo tra la fine degli anni 80 e inizio degli anni 90, e un progetto ambizioso. Loro andavano a proporre queste opere rock, quindi ti compravi il disco, c'era una traccia sola che durava tutto il disco, ed era un viaggio oscuro nei meandri della mente. Se era un 33, tra l'altro dovevi pure girare, esatto, il disco, quindi a un certo punto ci sarà stata una sfumatura, sì, e poi sì. E, allora i Devil Doll, che era un'orchestra, erano diversi musicisti e si appoggiavano anche ad un'orchestra slovena, e loro andavano a riprendere parti delle colonne sonore classiche, tra le quali brani di Bernard Herrmann, che abbiamo citato prima, che faceva ha fatto alcune colonne sonore dei film di Hitchcock. Loro andavano a fare una sorta di mashup, prendendo delle parti anche la scena che abbiamo citato prima di Psycho, andavano a mettere, ad assemblare in una visione dark prog tutti questi elementi horrorici, però suonando. Cioè, suonando, non c'era un montaggio musicale, tutto suonato. E sentiamo qui un estratto di 2 minuti, appunto, di questo lavoro, che è Helio Gabalus. No, dura 4 minuti. 4 minuti, ecco. Ho fatto un estratto un po' più lungo. Meno male. E ce lo andiamo ad ascoltare. Con piacere. I forget. yet how many. Then I start again. Finisce così il mashup. Eh sì, era un estratto un po' tagliato con l'accetta. Sì, però rendeva, cioè l'estratto rendeva proprio l'idea di quanto dicevamo prima, cioè della capacità di creare con le tessiture musicali intrecciate con le scene questa alternanza emotiva e quindi momenti di rilassatezza con momenti più forti ben espressi dai David Doll. Dunque, invece, siamo arrivati penso, al concorso. Siamo arrivati al concorso, credo. Il concorsone. Vogliamo mandare subito, e poi. No, devono dire allora, prima che finisca il pezzo. Prima che finisca. Allora, innanzitutto la domanda. Aspetta. Allora, adesso c'è dell'ultimo. Se volete vincere, dovete. Adesso. Prima che formuliamo la domanda. Poi se, la domanda come la facciamo? Che film e il film e il brano e anche l'autrice. Abbiamo detto che è una donna, ma tanto si sente perché la voce è femminile, sì, vabbè, quindi abbiamo quello aiutato. Vabbè, per il resto è difficile. Chi indovina il pezzo, l'autrice e il film in cui c'è questo brano vince qualcosa. Ancora non abbiamo, deciso cosa. Vabbè, ci sta. Però qualcosa l'avete accredito. Allora io però, la butto là. Sappiamo che il 13 maggio c'è qualcosa. Potreste ricevere direttamente dalle mani di Marco un qualcos'altro. Poi se non sapete rispondere a queste domande e sapete, che ne so, l'attrezzista invece del film, non c'era però niente. Saprai pure il film se sei l'attrezzista. Sì, quello sì, già è un pezzo. Però se sei l'attrezzista del film o il costumista, allora a quel punto prova adesso con Wikipedia, cioè vai su Wiki e vedi tutto, cioè non si può manco più fare sti giochetti. Eh sì, però qui basta perché il film è, e soprattutto che brano è. Eh sì. Ma infatti è in questo momento che insomma la domanda è vera. Guarda, allora io prima di dire facciamo il concorsone su questo brano, sul Teomora c'è, ho detto, però voglio sapere chi c'ha il Teomora a casa, perché il Teomora non sta in digitale, il Teomora ah, solo cartaceo. Sono andato a vedere sul Davinotti. Sul Davinotti alla sezione musica nella scheda di questo film è vuota. E quindi si fa, non funziona così, non lo trovate online non è così facile. L'informazione non la trovate online. Vabbè, allora ripetiamo la chi domanda. C'ha il cartaceo del Teomora, ma chi c'ha il cartaceo del Teomora merita di vincere. Certo. Io glielo do il premio. Va bene. Cioè, solo per il fatto che c'è il Teomora a casa. Ah, poi no, l'altra parte del premio, questo oggetto che darà Marco il 13 di maggio e poi diremo dove, c'era il bacio mio, però dicevamo questo qui è più una roba di punizione, tipo uno zombie che te viene addosso, quindi lasciamo Per... una serata da paura, no. Serata tema, horror. Tema horror, sì, bello, con esatto, tutto rispetto, esatto. Bello orrore no, però. No, sì, esatto, anche senza rispetto, va benissimo, lo accettiamo come sempre e vabbè. E allora mandiamo la traccia prima della fine del brano. Chi telefona e ci dice ricordiamo film, titolo e autrice? 0649 1750, 0649 1750, più lentamente 0649 1750, 25 o'clock@londarossa.info. sentiamo. Aspetta, e se indovinano anche la sequenza, la cosa in quel posto se la prendono con ingresso gratuito. Detta così è bruttissima. Infatti, o bellissima, dipende dai punti di vista, però. Sì. Va bene. Ok, dai, mandiamo la traccia. C'è suspense, mandiamo la traccia. That we're through, feeling better, 'cause I'm over you. I've learned my lesson, it left a scar, and now I see how you really are. You're no good. Aspetta che la rimandiamo da capo, perché secondo me qui, se è attento, potrebbe rispondere Spider. Vero? Sì, roba sua. Da capo. No good. difficile. Era difficilissima questa, perché è un film minore, tra l'altro caso credo quasi unico in Italia. Esce nelle sale prima il sequel di questo film, che è il film che è il capostipite del genere. Comunque non lo svegliamo, lo lasciamo così, poi cosa mai si no, in realtà scaletta. Diciamolo, perché lei è una bravissima musicista. Il film è anche un bel film che andrebbe visto. E tra l'altro poi qui parlavamo prima di giocare sui contrasti, c'è questa musichina soul così anche un po' allegra, un po' birichina, dilettevole in una sequenza in cui c'è il protagonista del film che fa a pezzi il cadavere di una vecchia con cesoie, con asce, con falcetti, li mette nei sacchi di plastica e lo seppellisce in giardino con perizia, però con perizia. Allora, invece siamo... Però non abbiamo detto il titolo. No, e non lo diciamo, infatti. Almeno l'autrice. No. Cattivi. Ma spietato proprio. Sì, è certo. Stiamo parlando, cioè, giusto, anche giusto. Ha descritto la scena. Cioè, certo, non perché fa il buono. No. No, no, assolutamente. Però in realtà diciamo che lei era ispirata a Leopoldo Mastelloni, eh. Questa cosa qui, diciamo, entriamo... Lei lo dice sempre, mio maestro era Leopoldo Mastelloni. Fino adesso ci siamo tenuti molto dignitosamente. E quindi do la parola al fantasma, abbasso il microfono di Marco. Sì, no. Beh, insomma, così un po' allora, brutto. Sì. Allora, no, no, è bello invece, quando dunque, mi parla di Mastelloni, vai. Vediamo un po'. Allora, parlavamo insomma di stiamo parlando questa sera di cinema di genere, horror, atmosfere spettrali, e questo è un po' forse il mio primo ricordo di quando ho capito cosa significasse il terrore, era guardando un cartone animato. Ben! Pure io! Bravo ragazzo! E sarebbe scontato passare la sigla italiana di Nico Fidenco, bellissima, ma ho portato la sigla giapponese che però nessuno conosce, che nessuno conosce. Conforzione lo dovevamo fare con quella. Però attenzione, Bam, il mostro umano, se non erro del 65. No, qui c'è scritto 1968, io ho dato 3 anni in meno. Vabbè, 68. Che comunque, ecco, si spiegano, siamo cresciuti con questa roba. E comunque si spiegano tante cose. Non era un cartone per bambini, era proprio horror. Invece assolutamente, mi ha traumatizzato. So che non gliene frega niente a nessuno. Ma sapete qual è il film che a me, ero veramente piccolino, avrò avuto 3 anni o qualcosa del genere, che è una di quelle cose che poi il film ovviamente poi l'ho rivisto più tardi, ma mi aveva atterrito. Adesso mi dovete aiutare col titolo. Era il film in cui venivano inseriti degli scienziati attraverso, venivano miniaturizzati e inseriti nel viaggio corpo. Allucinante, viaggio tratto allucinante. Da Bravissimo. Un libro di Isaac Asimov. Questa è la cosa che più mi ha terrorizzato da bambino. Non lo so, ho anche in negozio. Non lo so perché non c'è nulla di terribile, però io ebbi paura. Ma di cosa? Cioè della miniaturizzazione che mangiano. Probabilmente. Sì, comunque del fatto che appunto c'era della suspense, dei momenti di alta tensione. Va bene, allora Ben. Questo è ballabile, eh? Vai. Sculettate. No, il pezzo è sbagliato. Sì, hai ragione. Il bello della diretta. に生かれて生きる俺たちは妖怪人間なのさ人の姿を見せられぬ獣のようなこの体麻薬人間になりたい暗い定めを吹き飛ばせ全部 時に涙を流す俺だって妖怪人間なのさ悪を凝らして人の世に生きるのために燃えている 早く人間になりたい 暗い定めを吹き飛ばせ ペ ロペロ 妖怪人間星に願いをかける俺だけ妖怪人間なのさ正義のために戦っていつかは生まれ変わるんだ 早く人間になりたい 暗い定めを吹き飛ばせ ペロ ペロ 妖怪人間 20 minuti dopo la mezzanotte. Jazz. Come, come? Jazz questo jazz, pezzo. Certo. Sapete tra l'altro che tanti tanti anni fa, almeno 15, forse 18, 20, prima che andasse in onda, non sappiamo, non mi ricordo nemmeno se era Next Time o già c'era 25 o'clock, c'era una trasmissione di Radio Onda Rossa che mi sembra dalle 8 alle 9. Parlava di manga. Ma dai. Sì. Un ciclo, penso, di una stagione è durato, poi cambiarono gli stessi autori della trasmissione, gli stessi compagni che facevano la trasmissione, e parlarono invece di cucina. Ok. Così, variando, variando totalmente. La cucina giapponese, se per rimanere, no, no? No, no, sì, anche. Dieta mediterranea. No, sì, sì, parlarono di cucina. La stagione successiva o giù di lì. Da Goldrake ai formaggi. Esatto, da Goldrake al provolone. Allora, dunque, adesso abbiamo un altro autore importante nella lista, te lo ricordi? Per me, importante. Sì. Sì. Lucio. Sì, sì, con la colonna sonora. Sì, no, la colonna sonora, questo è un altro matrimonio, un altro grande matrimonio. Ah, prima si parlava del gruppo di, perché poi nel cinema di genere, ecco, questa è una cosa che va detta, essendo piccole produzioni, autoproduzioni, produzioni semi-indipendenti, più o meno, anche a partire da Romero, che per esempio si sposa di fatto con Tom Savini, e se lo porta fino a insegnargli la regia, addirittura un primo, se vogliamo, anche deludente esordio di Tom Savini alla regia è nel remake, che poi non è nient'altro che un rifare il film a colori della Notte dei Morti Viventi del 91, il remake. Quindi gli autori del cinema di genere mettevano su un gruppo di lavoro che era un po' come una famiglia, no? C'era il direttore della fotografia, che era sempre lo stesso, i gruppi musicali, tipo appunto il matrimonio famosissimo tra Argento e i Goblin, per dirne una, e poi c'è un altro matrimonio azzeccatissimo tra il mio amatissimo Lucio Fulci, amato per tanti motivi, sia perché ebbi la fortuna, l'onore, il privilegio di conoscerlo e frequentarlo nell'ultimo periodo della sua vita. Te ci sei laureato. Mi ci sono laureato con Dario Argento, e sì, con Dario, con Lucio Fulci, mai dire una cosa del genere, anche perché tra i due c'era una specie di rivalità che si doveva comporre nell'ultimo film, ahimè, mai girato, di Lucio Fulci, che era Maschera di Cera, produzione di Dario Argento, doveva essere il ritorno alla grande regia di Lucio Fulci, anche se in realtà Lucio Fulci era tornato alla regia prima con Le Porte del Silenzio, che viene fatto in un modo un po' rocambolesco, è una bella storia di amicizia, Le porte del silenzio è l'amicizia che gli dimostra, perché poi comunque c'era anche un forte legame, insomma non giravano i miliardi di Hollywood, quindi c'era più spazio per i rapporti umani. L'amico in questione era Aristide Massaccesi, che pochi conoscono come Aristide Massaccesi, i più lo conoscono, Porcelloni, come Gio D'Amato. E Gio D'Amato veniva da quella squadra di registi e faceva due o tre porno come Gio D'Amato per finanziarsi il suo film che firmava come Massaccesi. E alla fine riuscì pure a farsi una casa di produzione con cui però produceva soprattutto i suoi porno. Fulci, dopo le sfortune politiche che ebbe a partire da un Sisilizio a Paperino, non riusciva a trovare lavoro in Italia. Finì per un bel po' nel dimenticatoio, finché Massaccesi, che era amico di Fulci, decide di produrgli lui questo film di ritorno, che è Le porte del silenzio, ma non essendoci una casa di produzione ex novo da fare, usa la casa di produzione che usava per i film porno per firmare la produzione di questo film, che è un film molto delicato, va detto, Amando Fulci non è tra i migliori, e poi aveva in ballo questo Maschera di cera, invece la morte lo colse immediatamente dopo aver finito la sceneggiatura. Maschera di cera, regia di? Sergio Stivaletti, esatto. Che ammiro tanto come artigiano, come effettista, come regista, certo. Conferma la maledizione che l'effettista non dovrebbe mai mettersi alla regia. Invece, molto prima, un capolavoro di Fulci, che Fulci, dicevamo, in Italia non trova lavoro, ha difficoltà per il suo carattere, per la radicalità che a un certo punto pervade i suoi film, sia per la violenza che per i contenuti, per le tematiche anche politiche scomode, in realtà viene osannato all'estero. È uno dei pochissimi italiani che vengono lodati, citati positivamente dai cahiers du cinéma, che sono sciovinisti come quasi tutti i prodotti culturali francesi, soprattutto con gli italiani. Era il periodo della guerra del vino, poi, quindi figurati che cosa c'era. E in realtà loro fanno un'eccezione, una tantum per Fulci, e per lui coniano il titolo di poeta del macabro per un film in particolare, un film che il cui titolo originale era La paura, e dovevano lasciarlo così. Per motivi di produzione in Italia esce con un titolo osceno, Paura nella città dei morti viventi. Che però serviva per motivi di marketing. Per motivi di marketing, e conferma, perché già era un'unione rodata, perché Fulci, il suo gruppo di lavoro, già l'aveva rodato, ma se ce ne fosse stato bisogno, suggella l'unione con il suo mentore musicale. Poi Fulci comunque era anche critico musicale. Fulci era un grande esperto di jazz, pochi lo sanno, scriveva sotto pseudonimo Critiche Musicali, però qui non c'entra, perché l'altro grande maestro musicale con cui Fulci ha già avviato e continua fino alla fine un fruttuoso connubio è Frizzi. Frizzi, che in questo film secondo me dà il meglio di sé. La paura, diciamolo, Paura nella città dei morti viventi, per motivi di precisione accademica. O anche se volete cercare su internet lo troverete così. Lo troverete così. Titolo che non ha avuto. Appunto. E secondo me qui è il meglio, perché sposa tutte le tematiche fiabesche, perché Fulci attinge tantissimo alla dimensione della fiaba, tradotte poi, masticate, rimasticate in un'ottica, in un'estetica anche lovecraftiana, e con delle musiche gotiche che sono stupende, che sono, creano un'atmosfera unica. È un film che, per quanto violento, è assolutamente delicato. In realtà di suoni si chiama il tema, diciamo, non la traccia, ma il tema che va a commentare Fabio Frizzi su Fulci. Tra l'altro va detto di Frizzi, dopo la morte di Fulci crea un evento per ricordarlo, che è il Frizzi to Fulci, che ancora oggi viene fatto e viene suonato in giro per l'Europa e riscuote grande successo. Io ebbi la fortuna di vederlo una volta a Nettuno. Ma lui si fa questo tour europeo l'estate in cui ricorda il suo grande amico e sodale Fulci, mettendo in musica orchestrata, in orchestra, le colonne sonore che fece per lui. Bene, in realtà di suoni. Abbiamo parlato di colonne sonore, cioè di musica che va a commentare qualche film, più o meno. Solo sulla sequenza del pezzo che abbiamo appena sentito di Frizzi. Sì, vai. La sequenza cercatela, perché è una sequenza di... Capite perché è stato chiamato il poeta del macabro? È una sequenza in cui prima c'è un impresario di pompe funebri dentro il magazzino, no? Lo stallo di bare di questa città, che chiude l'ultima bara prima di finire la giornata di lavoro con una vecchia signora dentro, e la sequenza in uscita è con queste bare tutte chiuse a fine giornata, pronte per i funerali del giorno dopo, e l'impresario che se ne va. Con questa musica c'è cioè questa lenta marcia funebre, un piano sequenza lento e lungo della macchina da presa che sulla stessa stanza di bare chiuse e piene prima ci mostra la stessa stanza con tutte le bare scoperchiate e vuote, una stanza vuota piena di bare aperte e scoperchiate. È successo qualcosa, ma con questa musica, queste immagini sono di una violenza sottintesa estrema, senza mostrare nemmeno una goccia di sangue. Certamente. Allora, dicevamo, musica a commento, come appunto sottolineavi anche te, invece qui abbiamo qualcuno che dedica qualcosa. Stiamo parlando di Pax Armada, dei vecchi nostri. Non si possono. No, non solo ancora, Pax Armada, ancora. Pax Armada. Questi sono dei compagnucci di Roma che suonano buon felice, che a cui piace fare citazioni, e questa volta appunto cita Norman Bates, quindi Psycho, e questo è il suo modo di ricordare le scene di quel gigantesco film che è Psycho, quello della versione di Hitchcock, mi raccomando. torniamo con il fantasma perché è il suo turno, quindi abbiamo preparato qualcosa. Sì, abbiamo la prossima traccia. Non, allora, per motivi di salute, principalmente, non possiamo nominare questa band. Questa band, però sapete chi è? Cioè, sentiamo. Per tutelare la nostra salute, la nostra fortuna. Perché dobbiamo guidare tutti stasera per tornare a guidare, casa. Guidare, non so, tu devi annaffiare l'orto, non so. Beh, no, non a quest'ora. No, sì, non a quest'ora, però magari mangiare cose taglienti. Diciamo che se nomini questo elettricità. Se nomini questo gruppo, no, poi tutti i frutti dell'orto si seccano. Evitiamo. Quindi evitiamo di nominare questo gruppo. Gruppo italiano, attivo dal 1977. E niente, sono, ci cascano a cecio perché il cantante era un vampiro, il bassista un lupo mannaro, il chitarrista un negromante, poi c'era la mummia. Tra l'altro il cantante, lo diciamo prima, ha anche fatto l'attore in un film di zombie che è Hunger, Rise of the Dead, con Alex Lucchesi, dove lui recita la parte del prete pazzo dopo l'apocalisse zombie. Il film è bellissimo perché inizia col suicidio del papa e già ci piace. E quindi senza citare questo, ma abbiamo dato, no, tutte, guarda, le coordinate per capire chi è. Si potrebbe anche nominare, ma proprio non, no, una, non lo fare, si potrebbe, non lo fare. Ma non lo facciamo, non lo facciamo, non lo facciamo. Il titolo del brano zombie. Zombie, si può, no? Sì, abbiamo detto tutta la sera. Questo gruppo di mostri italiano, il pezzo mi pare proprio sia uno dei primi del 77, ce lo ascoltiamo, da The Story of, non dico il nome del gruppo, e questo è Zombie. E vai. Nel frattempo sono partiti i Misfits, cioè ce devono stare. Sì, li teniamo sotto. Sempre mostri. Sempre mostri, sarebbe stato bello avere The Monster Mash dei Misfits. Però guarda, è una compilation, adesso non so, magari andando a cercare, guarda un po', te che ci vedi bene. Con le luci basse che avete qua in studio. Eh no, questa è la... A parte per risparmiare energia elettrica. Anzi, comunque anche troppo luminoso questo studio, sì, rispetto. Sì. Volete la pace o i condizionatori? No, ma più che altro è anche luminoso rispetto all'argomento che andiamo trattando, insomma. Più esatto. Tenebre sarebbe stato ancora meglio, ma questo, diciamo, passa la radio. Non c'era, mi sa che non c'era. No, assolutamente non c'era. Allora, a microfoni spenti ci stavamo dicendo appunto che intorno a questo gruppo dal nome impronunciabile. Per la nostra e vostra sicurezza. Esatto. E diciamo che nel logo di questa band erano presenti due lettere. Due rune. Due rune. Vabbè, stiamo descrivendo, diciamo, l'effetto grafico del nome, per non però, sì. Però scusa, pure nei Kiss, ma infatti pure i Kiss sono stati additati come sì, però non come c'erano nazi. I gruppi di destra che si rivendicavano. Esatto. Ci sono stati gruppi di destra che si sono come dire, hanno cercato di portare tra le loro maglie culturali, tra virgolette, una serie infinita di personaggi. Ma più che altro di nomi. Pure Che Guevara. Sì, sì, gli interessava mettere dei nomi delle icone affinché fossero equivocati. Ecco, proprio l'equivoco, era la ricerca dell'equivoco, banalmente. Scrissi pure qualcosa. E durante un'intervista, la ottava nota del compianto, veramente, Richard Benson. Insomma, loro durante l'intervista ci tennero a prendere le dovute distanze con qualsiasi affiliazione con gruppi di destra. Ribadendo pure che a loro gli facevano anche abbastanza schifo quelle idee. Quindi, diciamo, chiudiamo così il capitolo. Sì, un po' come Tolkien, no? Tolkien di sicuro non era un compagno, ma certo. Definì Hitler un maiale, quindi il fatto che se lo rivendichi, no? Fa sì, un po' sì, ridere. Sì. Esattamente. Va bene. Allora, proseguiamo con la scaletta. Cosa abbiamo? Non lo so, perché facciamo il grande pit stop su quel film. C'era Keith Emerson di nuovo e sì, poi adesso ci sta quello dove ce ne stanno 2000 da quel film. E ne parliamo un po' io e un po' Fantasma, okay, perché tanto sono gruppi famosi che vanno a fare quel film. Tra l'altro il gruppo della traccia che abbiamo pronta si chiama Shadow from the Wilderness Orchestra, No Escape, Opera. Andiamo. Ah, questo è Opera, aspetta, non è quel film. C'eravamo quello. No, noi parlavamo di un altro film. Allora dobbiamo andare dopo, alla traccia successiva, dove abbiamo Billy Idol. Ok, Billy Idol, che il film è Demoni. Demoni, che ne parlavamo prima, abbiamo semi parlato prima, perché sì. Se chi si va a vedere la locandina di Demoni, vede scritto enorme Dario Argento, che in realtà in quel film non è il regista, ma è il produttore. Credo sia l'esordio alla produzione, l'inizio della fine di Dario Argento. Esatto. E tra l'altro il regista, che ha un cognome pesante, il nome un po' meno, anche se fece belle cose, figlio d'arte, un Lamberto Bava, figlio di Mario Bava. Mario Bava, Mario padre, Bava non ha bisogno, cioè, di il maestro del colore, cioè no, ma pure l'inventore dell'horror in Italia e il cinema, anzi proprio il creatore del cinema di genere, proprio tout court. se parliamo di cinema di genere, tutto parte da Mario Bava. Il figlio per un certo periodo seguì con dignità, senza forse raggiungere le vette del padre, però le orme paterne, questo film, ancora forse uno degli ultimi film decenti di Lamberto Bava, che è il regista appunto, ma è notevole perché almeno in Italia è sicuramente il primo film che dà la centralità alla colonna sonora, perché è una all star prettamente metal, cioè insomma metal rock, beh, punk, cioè quel Billy Idol, metal rock dark, no, il Bauhaus cioè, mi fai anticipare le cose, No, non giochiamoci le carte prima ancora di teniamo le coperte, che anche, e quindi, se questo film ha parecchie carte da giocare, Va bene, partiamo quindi con Billy Idol, e questa è White Wedding. Sì, tra l'altro con una sequenza di una Berlino notturna degli anni Ottanta stupenda. No, questo non è Billy Idol. Nice day to start again. 6 minuti dopo la mezzanotte, Radio Onda Rossa 25 o'clock in compagnia del Fantasma e di Marco dei Pit 38 Punk per una puntata speciale che, insomma, chi ha seguito fino ad oggi avrà capito, tratta essenzialmente del genere horror con a volte venature splatter, altre volte più sul thriller, sulla suspense, comunque insomma il famoso il cosiddetto cinema di genere, che tante radici ha anche proprio qui dalle nostre parti a Roma e altrettanto nella penisola, insomma. Dunque, quindi la lunga sequenza, non so se le vogliamo mandare tutte in sequenza o vogliamo aggiungere due parole su questo pezzo che abbiamo sentito. La sequenza è proprio un distillato di anni 80, che almeno per me, che ho cominciato a affacciarmi al mondo alla fine degli anni 80, richiami nostalgici, e quella sequenza con Billy Idol che suona White Wedding, nozze bianche, accompagna la scena di un gruppo di punk che pippano cocaina dentro una macchina guidando nella Berlino notturna degli anni 80. Cioè, quindi è un po' la chiusura del cerchio, ecco. La chiusura del cerchio è la perfezione degli anni 80, così riassunti in un'unica scena, in un'unica traccia. E invece, appunto, dopo un altro gruppone degli anni 80 che imperversava a quell'epoca, Everybody Up è la traccia sempre da Demoni, e loro sono i Saxon. Qui dovete scapocciare. Qui c'è la trasformazione della lei in demone. La prima trasformazione. Yeah. 0302 Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana laziale 25 o'clock 06491750. Ricordiamo che ormai è da qualche giorno, da una settimana o giù di lì, attivo il banner e tutta la procedura per effettuare il radioabbonamento a Radio Onda Rossa. Vi chiediamo 40.000 euro quest'anno da raggiungere pian piano, non, cioè affrettatevi da un certo punto di vista, affrettatevi perché i soldi ci servono anche festina su, lente, però anche dopo vanno bene, insomma, se mo non ce l'avete, cioè capiamo, d'altronde insomma siamo in un periodo un po' particolare, guerre, pandemie, governi, Grande Fratello, governi fascisti, Grandi Fratelli, cambio delle geopolitiche mondiali, insomma ci crediamo se ci dice che non, se ci dite che non ci avete 10 due scudi, Leopoldo dieci... Mastelloni torna in Rai, non ci credo. No, invece noi abbiamo pronta in questa sequenza di demoni una terza, forse ultima traccia, se non andiamo errati, sì, e c'era un punto esclamativo messo da qualche parte. Perché sì, ho capito qual è racchiude una serie di topos, ma è proprio i topos dei topos dei topos, cioè c'è l'eroe. Uno spadone da samurai. Uno spadone da samurai. Una katana. Un enduro di quelle anni 80, le prime enduro anni 80, una popputa bionda protagonista in un cinema pieno di zombie, arti che volano, sciabolate, teste mozzate, una spremuta di sangue. Una coreografia, insomma, di corpi che si dileguano, che si... si trasformano in qualcos'altro. Sì, sì. Che mutano di forma e dimensione. Gocciolanti. Sì, di corpi che passano anche dallo stato, vabbè, insomma, l'apoteosi di quello che sì, sì, è un'esplosione di frattaglie. Esatto. Ma questa roba qua, che tante volte appunto scandalizza i ben pensanti. Ci stanno ancora i ben pensanti? Purtroppo sì, ci hanno stanno. Vinto. Ah, ok, perfetto. Beh, però hanno vinto, però diciamo la metà ormai insomma sai com'è, insomma, Francia pure ha vinto Macron, però succede quello che succede, perché in realtà la metà della gente non c'è andata a votare, quindi diciamo hanno vinto de che, quindi tornate al cinema e cacciatevi e ben pensanti, se no okay. Ve beccate Muccino. Ma in questa roba qui di nello splatter, nella vera esagerazione del lo sai già, dai, la domanda che ti voglio fare. No, naso. È qualcosa che serve apposta, cioè è qualcosa di estremamente provocatorio. Che ah, sì, allora, se parliamo nello specifico dello splatter, lo è splatter un po' sta all'horror come il punk sta al rock. Cioè, certo. Ha il compito di sovvertire, uccidere un genere che doveva essere rivoluzionario, ma nel corso degli anni si era via via imborghesito. E in effetti, negli anni Ottanta inizia quella parabola decadente dell'horror che porta il primo geniale Freddy Krueger a essere un prodotto di serie per bambini, così come Jason Voorhees de Venerdì 13, per non parlare di un'opera massacrata come era il primo Halloween, che a quale Halloween siamo arrivati? 15 mi pare. 15 e tre quarti, come binario e tre quarti, manca veramente la Michael Myers contro Harry Potter. Adesso si fanno proprio le serie, quindi manco c'è più. Sì, lo splatter aveva il compito di dire no, io non sono un prodotto di mercato, cazzo, cioè non ci porti la fidanzata il sabato a vedermi al cinema, anzi se esco nelle sale di seconda visione, quelle che te le ricordi, no? Certo. Quelle con le panche di legno puzzolenti, dove si fumava, dove si fu bellissimo, dove si fumava, e quindi già il fatto che stavi lì non ti scandalizzavi. Certo. E noi a tuo proposito quindi ascoltiamo Accept, da sempre il film Demoni, Fast as a Shark. Fast as a Shark. Fast as a Shark. Eccolo qua. Finisce con questo starnuto finale, no? E vi abbiamo svegliato. C'era... No. Poi mentre passano i pezzi qui a microfoni spenti ci raccontiamo le scene dei film, ci esaltiamo ricordando le scene dei film e appunto ritorna, cioè avevamo azzardato un accostamento anche ispirati un po' dai racconti della casa di produzione dei film porno, sì. Che poi produce film horror e lo stavamo accostando un po', sì, un se po' fosse al porno, stato un porno, questa sarebbe stata l'orgia finale, l'orgia la sequenza finale, sì. E si finisce sempre nello splatter in un orgasmo finale sanguigno, Sì, una grossa eiaculazione di corpi, esatto. Però eiaculano con potenza, cioè che li aprono e esce tutto quello che c'è dentro. Quanto è liberatorio? Tantissimo. Allora, 25 o'clock, Onda Rossa, 87.9 della modulazione di frequenza, 06491750, il capitolo telefonico. E che ci vogliamo dire? www.ondarossa.info, lo vogliamo dire? E diciamo pure che dato che la cosa è riuscita, ci prendiamo i nostri buoni 2-3 mesi all'estate, come nella migliore tradizione dei film horror, dobbiamo fare la seconda parte. Certo. Tutto quello che è rimasto fuori. Il ritorno. Il ritorno, certamente. Allora, io non so quanta e quale roba ancora ci abbiamo da sottoporre a, beh, una importantissima, alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Suggeritemi voi, e poi c'erano anche delle cose fuori scaletta che mi chiedevi, quindi sì, magari adesso lasciamo un attimo, mi dai il tempo per cercarle, magari mandiamo un'ulteriore traccia. Siamo Bow House. Sì, sì, no, no, abbiamo, sì, abbiamo i Bow House, sì. Abbiamo i Bow House, Miriam, che si però sveglia a mezzanotte e sono proprio loro che nel film sono proprio loro che suonano all'inizio del film. Ah, okay. Dentro una gabbia. Uh-huh. E ci sono i protagonisti che seducono una giovane ragazza che stava in discoteca e trasformano poi l'amplesso che hanno con questa ragazza in un atto di antropofagia, emofagia, insomma se la mangiano in tutti i modi, mentre Bauhaus, con dei bellissimi primi piani sugli occhi spiritati di Peter Murphy, mandano questa iconica Bela Lugosi's Death, tra l'altro appunto ricordando anche, cioè è metafilmico, perché poi Bela Lugosi fu il primo attore a recitare la parte di Dracula in Todd Browning nel 53 e morì pazzo, convinto, gli ultimi anni della sua vita li passò dormendo in una bara, girando solo di notte col mantellone, convinto di essere Dracula, prigioniero del suo personaggio. Benissimo, allora Bauhaus a sto punto. Tanto Bela Lugosi era un compagno, eh? Pochi lo sanno, grande attivista sindacale per i diritti degli attori e delle maestranze del cinema Hollywood. Attenzione, perché pure Reagan era un sindacalista degli attori. Ma no, lui era un sindacalista di base, era okay, sindacalista politicamente molto schierato. Benissimo, Bauhaus allora, Miriam si sveglia a mezzanotte. Allora, abbiamo ascoltato da Bauhaus Bela Lugosi's Dead, la versione proprio quella del film, para para. Sì, quelli che sentivate non erano errori di regia, era proprio così la versione, sonorizzazione. La sonorizzazione del film, che è diversa da quella del disco. Certo, il disco. Il brano sul disco è molto diverso. E stiamo ascoltando Giuliano Sorgini, che componeva colonne sonore per film totalmente underground di inizio anni 70 a tema occultistico satanico, e si autoproduceva le sue colonne sonore, infatti non sono mai state pubblicate se non ora. Quindi sono cioè, con internet o proprio pure su supporto fisico? Sono usciti su supporto fisico dall'etichetta Four Flies Records, si possono trovare quindi alcuni suoi lavori. Tra l'altro sono uscite anche nuove produzioni di Giuliano Sorgini, e questa se non erro è Telecinesi. Questa non è Harry, perché Ombre Minacciose. No, questa è Telecinesi. Telecinesi. È Ombre Minacciose, se vuoi la possiamo annunciare per dopo, lasciamo scorrere così facciamo questo duplice intervento di Sorgini. Da capo allora, dai. Thank you. E io mi sono permesso qui di entrare a gamba tesa, perché dentro una scaletta del genere, in cui appunto ci sta al contrario la musica ispirata alla paura, all'horror, al thriller, allo splatter, e non potevano mancare i Bomb Machine. Cioè una banda che suona le tue ossa lo fa facendoti ballare, no? Esatto. E tu sculetti, ti muovi, poi scuoti, vai le ossa, le porte dell'inferno sono chiuse e tu sei qua. Quindi non possiamo che omaggiare Bomb Machine, i più infernali di tutti, da ti capo. Salutiamo caramente. Dai. Sì. Come funziona Radio Onda Rossa? Trilletto e noi siamo una volta c'era la cosa, le creature della notte, non mi ricordo chi lo diceva, se era proprio Carlo Massarini, ve lo ricordate? No, Creature of the Night era Rocky Horror Picture Show. Sì, però pure mi Shadow Moon. Sì, certo. A Kikis. Però mi pare che in italiano, siccome andava Mr. Fantasy andava in onda molto tardi, e allora lui ci come si dice? Apostrofava, ci nominava Creature della Notte, un programma seminale per quelli che hanno l'età mia. Ma noi siamo dei vecchi nerd, diversamente vecchi, con tre fasce di vecchiaia diverse. Forse no, il fantasma più. Ma penso che siamo abbastanza coetanei. Abbastanza vecchi uguale. Però ci sta che stiamo fino all'1:31 a sproloquiare. La cosa è che qualcuno ha resistito fino all'1:32 adesso a sentirci. E sui Bomb Machine trilla, e quindi noi dobbiamo rispondere al trilletto. Come again. la tua pancia al ritmo del tamburo. Sono le creature che ti seguono nel viale oscuro. Bisogna dire due parole. Sì, questa è la mia ultima scelta, messa in extremis, non c'era in scritta, ma poi parlando con Fantasma abbiamo detto no, cazzo, questo film è un film seminale, andava citato, perché se Demoni in Italia è sicuramente il primo horror rock dove la colonna sonora diventa centrale, diciamo che quasi sicuramente un film famoso come Il Corvo non ci sarebbe stato se non ci fosse stato questo film, che è Hardware, un film del 1990 misconosciuto, non capiamo, nessuno capisce perché, perché è una bellissima produzione, fatta veramente bene, forse ammiccava un pochino come gli effetti speciali a Terminator, ma era un incrocio tra Terminator e Blade Runner, però molto originale come storia, dove ci sono tutti, ci stanno i Phil Lord Neflin che recitano, c'è Lemmy che fa il tassista, Lemmy che fa il tassista armato tra l'altro, bellissimo, è impossibile citarli tutti, ve lo dovete vedere il film così li vedete tutti, e ci sono anche i ministri che ci deliziano con questa Stigmata, che è la scena in cui in questo futuro post-apocalittico un uomo porta una donna artista un regalo che è una testa robotica, senza sapere che è la testa robotica del modello da combattimento Mark V, e con i ministri il modello da combattimento Mark V riprende vita e comincia ad autoassemblarsi dai rifiuti, degli scarti, per portare, di un rigattiere, per fare quello che ovviamente sa fare meglio, uccidere. We'll be right back. Siamo a 46 minuti dopo la mezzanotte e questa è Radio Onda Rossa 25 o'clock. Abbiamo un po' compiuto tutta la parabola e siamo ritornati al punto da dove eravamo partiti, da dove avevamo cominciato. Però questa volta con una produzione di un personaggio strano. Sì, non lo conosciamo benissimo, però evidentemente è un fan di Carpenter che ha voluto tributare appunto la passione di Carpenter con una cover di 1997. Essendo poi un navigatore del tempo, dello spazio-tempo, assolutamente. Evidentemente a un certo punto ha intercettato, si è mischiato, ha incappato in Carpenter e ha voluto riprodurre, quindi e invece di qua sempre Carpenter e ritorniamo su Carpenter. Carpenter e dovremmo, poi la rimandiamo da capo, non vi preoccupate, dovremmo aprire un ulteriore, perché per ora abbiamo, fino adesso abbiamo parlato del virus o del vampiro, quindi di una situazione anonima che è anomala, che però riguarda essenzialmente la fisiologia umana, l'essere umano che a un certo punto sbrocca per qualche motivo e diventa orrorifico, pauroso, pericoloso, omicida. O muore, risorge, insomma. O torna in qualche modo. Sì, ci potrebbe essere tutta una apofantica, come dire. Una serie di miti antichi che ritornano. Questo non è tanto, ovvero ha sì probabilmente anche della vecchia mitologia, però come già avevamo visto in Hardware, qui c'è in Christine, c'è il rapporto, ma ci sono tante cose. Dovremmo fare una trasmissione a parte per sgomitolare tutti gli aspetti che i dettagli che vengono trattati in questo film e tutti i discorsi che ne vengono dal rapporto uomo-macchina, uomo creatore di macchine che riprendono il controllo e si ribellano al creatore in un certo senso e diventano la sua maledizione, e questo è Cristiano. E anche qui l'oggetto che possiede il possessore. L'oggetto che possiede il possessore su Christine, che appunto è infernale per quello, quindi c'è anche l'elemento della possessione. E forse tante cose. Christine penso sempre negli 80, come sì, non ricordo l'anno preciso di Christine. Oddio, inizia negli 80, ma insomma lo potremmo vedere, ma sarebbe troppo comodo. Loro brindano a tutti i pezzi di merda del 1986. Ah, ottima memoria. E il film di che anno è, però? Esatto. Perché il libro è precedente. Quindi sicuramente comunque un oggetto di premonizione di quello che poi sarebbe successo 40 anni dopo, insomma, 35-40 anni più tardi. Sì, comunque, questa versione fa parte della seconda vita di John Carpenter. Questa versione di Christine rientra nella seconda parte della carriera di John Carpenter. Volevi sapere l'anno? L'anno del film. Oddio. 83. Vedi, 83. Vedi. Esattamente 40 anni adesso. Te lo saresti aspettato? No. Va bene, dai. Però magari parlando di Carpenter un presidente americano finisse in una grande prigione a cielo aperto. Nemmeno quello. Sarebbe molto bello. Ma quello anche non te lo saresti aspettato, però. Un ex presidente. Presidente? Presidente di che? Vabbè, comunque no, scusa, per concludere il ragionamento. Sì, no, dicevamo, appunto, seconda vita di John Carpenter, che ha sempre suonato e composto le sue colonne sonore, avendo finito di fare i film con The Warden, non so se l'hai visto. Sì. Lo promuovi? Ma sì. Ma sì? Bella sì. Questa cosa. Perché... Io promuovo Carpenter, guarda, quasi a prescindere lo promuovo. Giusto. Però comunque è un film carpenteriano, cioè non gli manca nulla di quello che ti aspetti da un film di Carpenter. Ok, guarda, non è il suo canto del cigno. Non è il suo canto del cigno. Non è il suo canto, ma guarda, l'unico che mi lascia dei dubbi un po' è Vampire. Ma quello perché lui aveva sempre avuto quel sogno di fare un western. Il western vampiro, bellissimo. E quindi cosa fa John Carpenter quando smette di fare i film? Fa quello che faceva pure prima, continua a produrre musica elettronica, la ripropone in una veste un po' più moderna, gira il mondo facendo concerti, almeno per qualche anno ha fatto un tour, dei tour mondiali, riproponendo le sue colonne sonore in questa versione un po' più rock. Quindi quindi da capo, dai, da John Carpenter. Aspetta, facciamo i saluti a tutti quanti, a tutte, all'ascoltatore che sta tornando a casa a dormire il sonno dei giusti. Sì, dopo aver fatto il suo lavoro, diciamo, importante, anche quello. E gli siamo grati per questo. Va bene, noi ci diamo appuntamento allora, come abbiamo detto, alla seconda parte, che non sappiamo però come quale tema avrà più preciso. Potrebbe essere la conclusione di questo, nel parte 2, la vendetta. Sì, oppure potrebbe avere una tematica un pochino, no? Siamo sulle 3 ore di trasmissione, Ma ci siamo divertiti. Ma non è così insolito da queste parti, Allora Christine, dai, vi lasciamo agli incubi per cui della notte. lo facciamo mai, però in questo caso lo facciamo. Ormai sono le due, quasi tre minuti alle due. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro che ci ascoltano a condizioni di limitata libertà personale, carceri, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, centri di detenzione per migranti. Il palinsesto in diretta finisce qui e volevamo pure vedere, vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Sonata. Le trasmissioni riprenderanno fra poche ore alle 8 con la lettura delle prime pagine giornali, rassegna stampa cittadine, redazionali, poi tutta scena cinema. Le repliche di Atti a Blues, La Schiena del Sol e Tabula Rasa, I Cuginetti d'Apostasia, più o meno questo è il palinsesto del giovedì. Noi non ci risentiamo mercoledì prossimo, non ci risentiamo nemmeno il mercoledì 21 e credo che andremo dopo il 25, 26, 27, non ci ricordiamo, non abbiamo il calendario davanti. Chissà cosa succederà, come al solito. Comunque, dai a tutti e a tutti, ce ne andiamo sotto sta luna comunista, dai. I'll share our dreams under a communist